Ciao caro. Oh. Natali, tu sei? Sì, mi è arrivata adesso quella cosa. Sì, te lo volevo chiedere. Ecco, bene o male, credo arrivi oggi, tipo. Ma è questo che stai usando adesso? No. Ehi, aspetta un attimo e spengo il televisore. Sono con il microfono normale. Sì, la timidica, bene o male, la riconosco. Ascolta, il mic gain ce l'hai a manetta? Vai sul tasto function, tieni premuto, ti compare il menu. Il mic gain è la prima voce di solito, eh? Il C9 c'è. Sì, sarebbe mic gain, deve essere al massimo. Con un monopoli canali lo giri, perché va a un numero tipo 36, credo, e poi ritorna a 1, capito? Lo devi mettere al massimo e confermare col tastino function. A 63 è andato. Ah, sì, allora quello c'è a 63, invece il 9009 aveva tipo 34 di valore massimo, 36, qualcosa del genere. L'hanno fatto un po' diverso, ma alla fine siamo lì, dai. Ti volevo dire, ma tu ce l'hai il manuale in italiano lì con la radio? Ce l'hai il manuale? In italiano? No, ma hanno mandato il manuale solo quello normale. Ho messo la potenza al minimo perché era troppo alta, la mia nebulosa a manetta, sì. Cappa, sì, allora... io ti mando il manuale in italiano, che è quello dell'Intec. Quello che cambia è che forse ti troverai due o tre voci di menu in più. In più? In più, sì, perché hanno aggiunto voci di menu tipo, potrebbero essere i sub-toni oppure qualche funzione particolare, capito? Però bene o male il menu è quello. Vabbè, non me lo puoi dire tu come regolarlo. Sì, però il manuale comunque bisogna averlo in italiano. Ogni tanto se ti dimentichi qualcosa almeno lì lo capisci meglio e lo spiega in italiano, capito? Sì, in seguito me lo mandi, non c'è problema. Volevo sapere se in FM usciva bene o se bisogna fare qualcosa. Allora proviamo adesso, allora prova FM. La potenza come ce l'hai? Tutta a manetta o al minimo? No, al minimo ce l'ho. Ok, proviamo FM, dai. Ok, Marco. Eccomi, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sentimi in FM, vedi come va. Io sto usando il baracchinetto, quello praticamente omologato. Parla un po'. Sì, va benissimo come lo ce l'hai tu. Io non so come sto uscendo in FM, guarda un po'. Guarda, l'FM sembra più fedele della M. Sembra più fedele della M, è più bella, capito? E allora lo lascio così, qua, FM. Tu cosa c'era da regolare che non me lo ricordo, tutte le cose che abbiamo fatto? Beh, allora, se tu non hai esigenze particolari, in realtà andrebbe lasciato tutto così, tipo la lunghezza del beep, la frequenza del beep, che so... La protezione da sovralimentazione va lasciata, la protezione da stazionaria va lasciata. In realtà, te l'ho detto, se non ha necessità andrebbe lasciato tutto così. Fammi sentire il bip un attimino, Roger Bip. Guarda, qui c'è il bip. Allora, di fabbrica regolato basso, mi pare sia regolato a 1050 Hz e duri roba di 2 secondi. È lungo e dura un secondo, anche un secondo e mezzo, forse anche due. Poi se lo vuoi tipo il Superstar 3009 ti dico i valori, capito? Ti dirò i valori. E così è troppo lungo, capito? È anche basso. E vabbè, i miei valori, io vado sul valore. Dai che vado sul meno. C'è anche uno in FM in propagazione. Aspetta che mi trovo il video dove avevo i valori. Ah, lo puoi fare anche tipo il cocotte, cioè breve e acuto. Cosa preferisci? Allora, quello cold credo che lo metti a credo 2000, adesso non mi ricordo se era 2100, non me lo ricordo bene, e RBF, Roger B. Frequency, lo metti tipo 100 millisecondi, 100 a 100, là, sarebbe, vuol dire 0,1 secondo, mi, ecco. Allora premi il tastino F per arrivare alla voce del menu che vuoi e con i canali regoli il valore. Con la manopola dei canali regoli il valore. Naturalmente se trasmetti esce dal menu, capito? Lo devi fare senza parlare. Aspetta, parla vicino al mic. Aspetta, aspetta, hai abbassato qualcosa, forse senza volerlo hai abbassato la il mic gain, ti sento più basso adesso. E rimettilo a 63. Lo metto a 63. Oh, adesso è tornato come prima. Ok, no, dicevo, allora, per tu stai parlando, no, c'è il baracchino, un po' baritono, ma tu premi function, o come si chiama quel tastino? Lo tieni premuto finché non compare il menu e continui a premere, a premere e mollare finché non ti arriva la voce di menu che serve a te, che in quel caso è RB Time o RB Frequency, cioè prima c'è la frequenza, poi il tempo o viceversa, no? Intanto c'è ancora RBT, sarebbe Roger Beep Time, RBF, Roger Beep Frequency. Dammi i valori che mi descrivo, così almeno li metto e tu. Sì, allora, la frequenza RBF prova 2100, casomai aumenti dopo, perché non mi ricordo il valore esatto, Quindi, 2100. Ok. Allora, il tempo credo che sia 100 RBT, RB time, durata sarebbe 100 millisecondi. Aspetta che lo fa. È un po' di capitolo. Marco. Sì, ya. Era 500 RBT. Addirittura 500, e quanto l'hai messo? A 2100? No, a 2100 l'ho messo, quello RDF, RDP era a 500, l'ho messo a 100. So che l'FM non lo sento l'FM, che strano. Guarda, adesso è a 500. Caspita, talmente acuto che non lo sento, forse il tono non è quello, forse è meglio che ti do il tono del Superstar, del 3009. Aspetta, intanto l'avevamo fatto, Aspetta un attimo che provo a metterlo a 100. Guarda a vedere. No, non sento nulla però sul beep tuo, Allora, se... Aspetta un po'. Un attimino, Dunque, vediamo un kilohertz, vediamo un po'. Come mai non trovo? Aspetta, Superstar 2009. It sounds around 2,1 kHz. No, 2100 era per il Superstar, scusa, 2100 è per il Superstar 3009. Mi pare per il Colt era 2005 addirittura. E 2150. Però non sento il beep, non ce l'hai? Aspetta, lo metto a 2005. No, 2100, perché rischia di essere troppo acuto, capito? È a 2100, RBF è a 2100, RBT invece è a 100. Non lo sento però il beep, che strano, aspetta. Tollo squelch. Cappa. No, già lo sento adesso, è qualcosa dovuto all'autosquelce Natali che me lo eliminava. Allora, per essere come il 3009 deve stare il tempo a 150 millisecondi, credo. Ma a me mi interessa accorto come il Colt. Sì, si sente, diciamo non è fortissimo, ma si sente. cioè breve, voglio dire. E la frequenza come la devo mettere? La frequenza l'hai già messa, mi hai detto 2100. Sì signore, aspetta che guardo per essere sicuro. E così è, 2100 e 100. Via. Sì, è abbastanza delicato e non è fastidioso, si sente abbastanza tenue, anzi più tenue di quanto mi aspettassi. Poi cosa ti voglio dire? Allora, il manuale l'ho mandato, altre cose che ti possano interessare, più che altro il mic gain, quello che interessa, che tanto ho lasciato a manetta. L'autoascolto si chiama, mi pare, NOG, N-O-G, una cosa del genere, e viene subito dopo del mic gain. Sì, vabbè, non mi interessa l'autoascolto. Adesso provo a mettere il coso, il come si chiama, il microfono, l'MB+4, a vedere. Aspetta, fermo. Ricordati che è sull'MB+4 il filo della ricezione, che è sul pin 4, non deve essere saldato assolutamente, perché sul pin 4 arriva tensione e rischi di mandare in corto tutto. Ah, quindi prima devo aprire lo spinotto e controllare. Eh sì, allora siccome il 3009, per esempio, tu dove lo usavi l'MB+4? Nel 3009 lo usavo. Ecco sì, allora ricordati che sul 3009 il filo della ricezione non è necessario. Il filo della ricezione è quello che quando premi PTT si stacca, no? Viene scollegato, diciamo. Non serve nel 3009, non ne ha bisogno, infatti va risaldato e isolato. Ricordati, non mettere mai, non collegare mai nulla sul pin 4. Sì, vabbè, adesso me lo apro quando c'ho tempo, adesso lascio il microfono normale che va bene ugualmente. Via. Poi quando hai tempo al limite guardalo dentro com'è, cioè vabbè, adesso collaudo l'apparato, no? Per la storia della garanzia, non che c'hai 8 ore o giorni per provarlo, no? Controlla tutte le funzioni che vadano bene. Allora potresti avere tu in più, sai cosa, i subtoni oppure il Vox in quell'apparato lì. Devo guardarmi anch'io il menu della nuova versione, anzi dovrei trovare, non so dove, il menu della nuova versione. Adesso guardo in rete se lo trovo, non il menu, il manuale. Sì, ho capito, questo è quello normale, LCO, i 10 kHz, scan, scan list, iCut sarebbe un filtro, però io non so come metterlo. Allora, la scritta è sotto il tasto, vero? Allora ricordati, le scritte sopra il tasto le attivi semplicemente premendo il tasto, invece le scritte sotto il tasto le ottieni, cioè le funzioni dove c'è, insomma, la scritta sotto il tasto, lo ottieni prendo brevemente function e poi il tasto. Ah ok, serve per attenuare quello, un filtro. Sì, praticamente l'iCut vuol dire taglia gli alti, ti taglia i toni alti, capito? Quando c'hai, per ridurre anche il rumore del fruscio un pochino, ti taglia i toni alti, capa. Sì, c'ho l'NB-ANL inserito e basta, e poi il Roger Beep e Beepiccio, cosa vorrà dire BP? Non lo so. No, dimmi bene, fai lo spelling. Allora, c'ho Romeo Bravo, NB-ANL, Bravo Papa. Ah, BP è il beep della, quando premi i tasti, io l'avevo tolto perché era molto fastidioso per me. E guarda che c'è il tasto, il tastino c'è, per togliere il beep alla pressione dei tasti, soprattutto la notte quando era tardi, era troppo forte per me. E ho capito, sì, l'ho trovato, lo sai dov'è? Adesso lo tolgo, quello dei tasti. Prova un po' il lecca lecca. C'è il lecca lecca? No, devi aumentare, prova a mettere le manopole a metà, tutte e due a metà. Attento Condor, ti ascolti qua con l'ecco lecco. Sì, si sente. Cioè, la ripetizione è molto rapida, rapida. Però funziona, anche quello funziona. Sì, vabbè, adesso tanto non mi piace direi a me, non è bongo. Non ti piace leccare, da? No, no. Allora, c'è il tasto A, ah, forse devo toccare il coso per toglierlo. Sì, poi casomai stasera con più calma la proviamo in SSB anche. Aspetta, telefono. Quel bip fastidioso l'ho tolto. Sì, perché adesso non so se sia regolabile sulla tua versione, però sul mio era forte e non era regolabile, mi pare, era troppo forte. Uno magari lo può mettere in macchina, così si accorge quando cambia canale, si accorge quando premi un tasto, però a casa di notte è fastidioso. K. Aspetta, guarda una cosa. Sì, il bip per quello dei tasti, stavi dicendo, quello l'ho tolto, cioè RB, poi cioè NB, ANL e basta. Eia. Poi che altro lì? Allora, volume square, c'è la potenza, vabbè, qua già sei fondo scala, quindi sarebbe utile provare perché non cambierebbe. È presente il comandino, mannaggia, devo vedere la foto, aspetta, sì, adesso ho la foto, certo, potevano metterla migliore, più dettagliata, ma non è male. Vediamo questa, per giocare andare di notte, niente, vediamo se c'è una foto HD, HD. Ma che devo vederlo visivamente, se no non mi ricordo mai. Ma cosa stavi cercando? Che comando cercavi, Marco? Allora, il clarifier, no? Quello tutto a destra, il clarifier sembra che abbia una posizione infinita di scatti, cioè che gira all'infinito, no? Invece poi c'è un fondo corsa, c'ha tipo 30, 40 o 50 scatti, non mi ricordo, io mi ero pentato, avevo trovato, ero andato tutto da una parte, poi l'avevo portato tutto dall'altra contando gli scatti e poi fissato come sono, sono tornato indietro in modo da metterlo a metà di tutti gli scatti in posizione centrale, infatti corrispondeva in posizione verticale, dai, il contrassegno bianco. Mi ero pentato, sì, perché no, sembra che abbia, che giri all'infinito, invece no, c'è un fondo corsa anche quello, K. Poi vediamo, quindi, clarifier, modo, bande, RF gain, RF power, ecco, tono, volume, squelch, sì. Poi gli altri tastini sono sempre quelli, sì, sono uguali, C'ha, vediamo. Vabbè, scan list te lo spiego un'altra volta. Allora, scan list serve a eliminare un canale dalla scansione. Per esempio, tu metti lo squelch, te lo regoli, non fa la scansione dei canali, però c'è un canale che magari c'è una portante muta e è sempre occupato, per dire, e tu lo vuoi eliminare. E mi pare che premendo function scan list lo elimina dalla scansione e ti compare un puntino sul frequenzimetro che ti fa capire che il canale, quando fare la scansione, lo escluderà dalla scansione. È praticamente il tasto skip degli scanner, capito? Sì, quello per eliminare un canale. Allora, a metà qua, aspetta un attimo che vedo un po' il rosmetro. Aspetta, Allora. Ah, al minimo è. Vediamo il segnale, aspetta che me lo guardo bene lo smitter, vai. Al minimo l'ho messo. Aspetta che tolgo questo, infatti 3 watt. Metti a manetta. Guarda, così a manetta. E quanti ne dà? Aspetta, lo dico. Ed ha esattamente 15. Ottimo, ottimo, sì, praticamente qua cambia di mezzo millimetro, cioè la lancetta proprio mezzo millimetro in più, ma a Malagana, capito, perché sei già troppo vicino, ok, però in distanza si vede la differenza, fai, che ne so, 3x4, 12, con le 15 a voglia, un Santiago abbondante ti dà in più, in distanza. E ho capito, da. E poi in FM non ne parliamo, a voglia. Quindi la retroilluminazione dei tastini, no? Dei tastini, è come, che colore è? Te ne accorgi? E sul verdolino rimane. Ah, sul verdolino, tipo verde acqua. Ehi, tenue, è bello. Sì, gliel'hanno rifatto, io mi ricordo l'anitone, il primo credo che fosse rossiccia, era una specie di rossiccia blando, cioè era troppo uniforme l'apparato, invece se gli hanno fatto verdolina è più bello, sì. Sì, è bellino, Cap, se lo vedi è veramente bello. Ecco, ho trovato una foto della versione Plus, quindi hai la scritta all'estrema sinistra, quella verticale, no? Quella scritta grande, no? Che dovrebbe essere in azzurrino. E i caratteri tipo azzurrino o verde acqua, come hai detto tu. Sì, l'hanno fatto più simile all'Intec. Sì, è molto molto bello, caspita. E poi sono i canali sono verdi. Frequenzimetro è arancione, là, non è rosso come stavi dicendo tu. Sì, io dico rosso, vabbè, però è arancione in realtà, un bel arancio caldo. Sì, eccolo qua, un'altra foto, sì, tipo verdolino acqua, sì, l'hanno fatto come il mio l'hanno fatto. Poi a qualcuno può non piacere, perché dice, però c'ha il frequenzimetro arancione, i canali verdi, le scritte in blu e poi le serigrafie delle funzioni in verdolino, so. A qualcuno può non piacere, invece poi la notte, adesso è il giorno, però quando c'hai la luce tenue della sera, della notte, magari con che hai solo una bajur, te ne accorgi di quanto è bello. Proviamo in USB a vedere. Non ce l'ho qua, dovrei cambiare apparato, che però è freddo e magari non è, quando è freddo non è molto centrato in... Aspetta che provvedo un attimino, dai. Sì, io sono qui, no, già non scappo, per vedere come andava in banda laterale era. Prova, facciamolo scaldare appena appena, quanto basta. Cosa, Marco? Ho detto, lo facciamo scaldare appena appena, questo, quanto basta. Taglia un bel QRM, mi quel like. Eia. Aspetta un attimino, qua è tutto... La modulazione è diversa dall'apparato di prima, vedi un po', dimmi se è uguale o diversa. Ah, sembra uguale. Praticamente l'apparato è sempre presidente. Poi sai, qualcuno può essere tarato più o meno forte, eccetera. Allora, proviamo USB. Ah, aspetta, ricordati che tu il clarifier in teoria dovrebbe funzionare in sola ricezione per ora. Poi puoi scegliere se usare le centinaia di hertz o le decine di hertz. Io francamente uso quello più grossolano, le centinaia di hertz, perché con le decine devi girare un bel, non c'è, alla fine è una rottura. Però quello lo puoi configurare, allora solo ricezione, solo trasmissione, oppure trasmissione e ricezione. Spero che per adesso sia solo in ricezione il tuo. E infatti, passa USB che vediamo un po'. Giulio mi sembra, avanti, buonasera. Ciao Marco, no, stavo seguendo il discorso sulla, comunque mi sentivo a 15 Hz di differenza, io mi sentivo a 15 Hz sotto, centrati, tutti e due, poi non so dove eravate voi. Mi ero spostato per centrare a Marco, io, capito? Infatti mi sentivo io a 74,085, mi sentivo, non a 0,75, 0,74 o 0,85, è lì che mi sentivo bene, chiaro, tutti e due. Sì, ho capito, io l'ho spostato a 74.090 euro, là. Sì, ok, magari ti sentivo bene anche, ma io ho regolato a 85, così e probabilmente ti avrei sentito bene anche a 90. E tu Marco? Allora io non ho, in questo precedente non ho l'indicazione degli Hertz, ho solo la frequenza grossolana 0.850, poi c'è il clarifier che però muovendolo non mi muove la frequenza sul display. Faccio lavoro in ricezione ma non so quanto sia in effetti la frequenza. Comunque era 27.4.0, hai detto 74. 85, quelli però sono 150 Hz, non oh no, aspetta, uffa, mi sto incasinando Giulio. Comunque Natalino è equipaggiato, c'ha il gemello del tuo, però rosso, ed è un po' più aggiornato, là. Ho capito, 15 Hz sono, da 0,74.85 a 0,75 pieno, sono 15 Hz, io vado avanti anche a 1 Hz per volta, oppure per 10, per 100, o addirittura mi sembra anche per 1000, posso andare, per cui ma vi ho centrato con 15 Hz in meno, ho tutto lì, Marco. Ehi, sono 150 Giulio, 150 Hz, praticamente il primo decimale che trovi sono i 100 Hz, e l'ultimo decimale, quello a destra, sono i 10 Hz, e quelli 150 Hz. Poi, che io sappia, Natalì, adesso non mi ricordo se c'era una funzione di menu di servizio che è più delicato, però il menu di servizio serve a centrare perfettamente l'apparato di trasmissione, perché una cosa, ricordati, quello non è un vero frequenzimetro, è un indicatore di frequenza come può essere un indicatore di canale, quindi se vuoi essere centratissimo devi farlo con un ricevitore, con un apparecchio HF tipo che riceve, e l'altro te lo centri in trasmissione, però quella è una cosa più avanzata che casomai se è necessario si farà in seguito. K, vai Natalì. Sì, a me mi basta che mi sentano e basta, e che mi rispondano soprattutto. Sì, per esempio Giulio, è presente l'elenco di X10, è il fratello minore come dimensioni del tuo, di quello di anche di Natale. Giulio? Sì, mi stavo centrando anch'io adesso, perché mi sentivo ugualmente bene anche a 15 e si è spostato, no? Non c'era problema. Comunque adesso sono centrato anch'io a 0,75, perfetto, e va bene. Cioè, l'avevo lasciato come era in banda laterale poc'anzi, per cui va, mi sentivo ugualmente, no? Quando sono pochi S così non è che ci sia poi tutta questa differenza per la ricezione, per cui va bene lo stesso, non c'è problema. Giulio, come mi ascolti a me? Dammi Santiago e radio, che l'avevo messo al massimo, adesso dopo lo metto al minimo, perché non va bene intanto qua metterlo forte. Diciamo che il segnale è un po' più di 9, segna 9 è un po' abbondante, qua sempre a legge, no? E la radio è ottima, non c'è niente da dire, perfetta. Ecco, adesso è al minimo, l'ho messo al minimo, è da 3 watt, non da di più. Lo so, come il mio, io lo stesso sto uscendo con 2 watt, non è che sto andando di più, per cui tra l'altro a me me le segna, infatti me le segnano le barre delle cose, dello strumento anche, quando mi si accendono 2 tacche, schiacciando la porta senza modulare, mi devo dire che sono 2 watt, oltre a quello, poi quando modulo arriva a 5-6 tacche, questo però sono i picchi positivi della modulazione. Sì, adesso stiamo arrivando intorno ai 7,5-8, era abbassato come segnale, o perlomeno le tacche segnano così quando stiamo modulando. E infatti, due tacchette mi segna quando schiaccio la portante, quindi sono 2 watt, a me il rosmetro mi segna 3. Sì, io adesso ho guardato bene, 8, 8 di portante fissa e modulati, arriva anche a 8,5 con questa potenza che stai usando. Sì, appunto, te lo sto dicendo, quando escono il numero delle barre significa anche il numero dei watt che stai usando, niente di particolare, io lo uso sempre così, a 2 watt e va bene lo stesso, già mi sento. Va bene, là. E sto usando il microfonino normale suo, L'MB4 non l'ho attaccato perché probabilmente ho tutti e quattro i fili attaccati, non va bene per questo. Io ho dovuto fare lo spessore, ho fatto lo spessore, perché diretto non era compatibile con le lamiche, non erano compatibili. Allora ho fatto lo spessore, con lo spessore ho fatto la correzione appunto per i collegamenti senza toccare lo spinotto del microfono, per cui a parte il fatto che mi serviva anche per allungarlo il cavo perché come sono messo io mi serviva distante e mi serviva il microfono, non dovevo stare a ridosso della radio, capito? E allora ho ottenuto due cose in una sola soluzione, cioè facendolo la prolunga allo spirolato del microfono, e dunque ho ottenuto sia la conversione dei contatti e poi anche l'allungo che mi serviva per allontanare il microfono. E infatti ce l'ho anch'io quello spezzone fatto così, perché il 3009 è lontano da qua, però devo eliminare quei fili del contatto numero 4, non so se li ho eliminati. Aprirò lo spinotto. Non so. Col tester, Natalì. Appunto, spezzoni ne avevo diversi, no, ne ho provato e c'era un problema che quando lo mettevo, come schiacciavo mi cambiava di due canali, però non era ideale per la modulazione. Allora ho sostituito un contatto in quello spinotto della prolunga, dello spezzone, e poi ho risolto tutto, niente di particolare, facilissimo da trovare, anche perché avevo infilato prima i fili dentro lo spinotto del microfono originale, e avevo infilati così, fissati con un nastro isolante, poi mi sono preso il numero del corso dello spinotto, perché lo spinotto è numerato 1, 2, 3, 4, e mi sono fatto lo schemino e poi ho fatto l'allungo così, con quelle saldature corrispondenti. E bisogna che apra lo spinotto, lo guardo, se ci sono attaccati li stacco e basta. Sì, ma ti conviene, togli tutto, lasci quello che è attaccato alla radio, lo spinotto, e l'altro lo togli, lo disaldi tutto, prendi i fili e ci infili dentro lo spinotto del microfono, ce li infili, no? E trovi la combinazione. Una volta che hai trovato la combinazione ti fai lo schemino con una penna, un pezzo di carta, e allora fai le saldature in relazione allo schemino, vai alla prima e in 5 minuti risolvi il problema. Già lo so, siccome non lo so se qua non li ho cambiati così i contatti nell'MB4, però bisogna che stacchi almeno il filo della ricezione, quello del contatto numero 4, perché intanto non ce n'è bisogno della ricezione qua, perché se no mi faranno. Ho capito, no, io non ho mai avuto l'idea di scombinare i contatti originali dello spinotto del microfono, mai. Io tutte le radio che ho utilizzato con un microfono, con questo microfono, ho sempre fatto la prolunga, senza mai toccare lo spinotto originale, le saldature originali sono rimaste sempre quello. La correzione l'ho fatta sempre nella prolunga, perché si può fare benissimo con quello. posso utilizzarlo per dire in diversi baracchini, lo posso utilizzare per dire questo con lo suo specifico o a lungo, però con lo suo specifico spessore, perché ogni baracchino può avere contatti diversi da un altro. E infatti adesso apro lo spinotto e guardo, mi basta attaccare solo il contatto del contatto numero 4 e così è a posto. Sì, beh certo, te lo sto dicendo, come io siccome questo avendo l'originale, avendo il cambio canali anche da microfono, secondo come lo mettevi, quando schiacciavi ti cambiava il canale anziché che darti la modulazione, ecco com'era il discorso. Ho fatto la correzione, lo scambio dei contatti e dunque tutto risolto, ma ci ho impiegato 5 minuti in Natalia a trovare la combinazione giusta. Niente di più, l'ho fissato provvisoriamente con un pezzo di nastro isolante, l'ho fissato perché non avevo il barilotto da poter unire il microfono, non ce l'avevo, poi invece cercando fra le cose che ho, ne ho trovato non uno ma addirittura due, ne ho trovato, e per cui ho fatto altro che saldare e va benissimo. Adesso un nastro isolante non ce l'ho più, adesso ce l'ho direttamente inserito con lo barilotto maschio e barilotto femmina, no? E infatti adesso quando apro lo spinotto vedo se c'è il contatto numero 4 e lo tolgo, non ci metto niente, no, a farlo. Appunto, già è fatto. Comunque Marco andava in quel registro, no, per quello che non l'ho più chiamato. O ci sei ancora, Marco? Sì, stavo approntando la roba in cucina, scaldando il fornetto io. Sì, e quindi adesso Natalino è soddisfatto, visto che io non gliel'ho voluto vendere, perché ci sono affezionato a quell'apparato, quello è il più simile, diciamo, per via dei tasti e manopole frontali al 3009, no, per quanto sia CMD, e quello insomma non l'ho voluto dare, ma non solo quello, anche gli altri due ho preferito tenerli. E comunque Natalino è meglio nuovo, con garanzia e tutto quello che vuoi, capito? Meglio nuovo. Cappa, cosa volevo dire? Sì, comunque l'abbiamo provato in FM, Giulio, e l'FM era più chiara della M, più limpida, ma dalla terra lo stesso lo sentivo bene, così dai, poi si faranno prove di tutti i tipi in modo da testare tutte le funzioni e accertarsi che funzionino anche tutte le voci di menu. Vabbè, ancora si fa con calma. Ah, e cosa ti volevo dire? Allora, se voi avete presente la Linco di X10, ho chiamato anche 135 di X, che praticamente è la versione ridotta del nostro, è più piccolo, no? Però ha le stesse funzioni, lì c'è un menu che non è il menu normale, è un menu di servizio che è da usare con estrema cautela. Ecco, da quel menu di servizio ho potuto centrare l'apparato in trasmissione, e con una certa precisione anche, cioè per non dire che è perfetto. Adesso potrebbe avere anche questo che è tu, che è io, che è Natalino, potrebbe avere anche lui quella voce di servizio, quel menu di servizio, che però non ho scoperto come si attiva. Se c'è lo puoi centrare a caldo, e l'apparecchio deve essere già caldo, lo puoi centrare perfettamente in trasmissione, in modo che in USB sia centratissimo, però quello si farà, se necessario si farà con calma. Riprendi Giulio che vado in cucina, riprendi con Natalino. Ok, sì, adesso ho staccato il caricabatterie del cellulare, adesso sicuramente è anche più pulita la modulazione, prima avevo sicuramente una leggera alternata, però magari la modulazione copriva l'alternata, però c'era, lo so che c'era, adesso è pulita senz'altro. Sì Natalino, comunque non ho capito come ce l'hai, uguale al mio o simile, come non ho capito bene, cosa hai preso? Io ho preso l'Amitone, quello con 4-5. Ho capito, guarda che è simile mio Natalino, non ti credere che ci siano differenze, no? Guarda, ci sono, di queste radio qua, ce ne sono roba di 15 o 16 o forse anche 17 e 18, che sono tutti uguali, cambia solamente l'estetica, il mobiletto, cambiano, ma come modulo e come funzionamento, che magari può essere comandato in altro sistema, magari io posso avere, che so io, un tasto, tu magari potresti avere un potenziometro per avere lo stesso comando, che so io, però alla fin fine hanno tutti quanti lo stesso funzionamento, le stesse prestazioni, o Natale. Me lo posso immaginare, no? Tu c'hai quello che c'ha Marco, io invece c'ho quello col frequenzimetro arancione, però non cambia nulla. No, non cambia niente, assolutamente. No, il mio è blu, sì, dunque non cambia niente, è quello appunto che ti sto dicendo, le prestazioni sono uguali, identici, solo che cambia magari la figura, lo stile della carcassa, diciamo, dai. Ma per il resto è tutto uguale, ripeto, con questo stesso funzionamento, questo modulo, come lo vogliamo chiamare, ce ne sono 15 e anche di più, forse 17, 18, perché avevo un elenco io che si riferivano proprio alla stessa, a quello che ti sto dicendo, ne esistono tanti, per cui però a differenza che magari, se so io, uno se lo fa chiamare, un commerciante se lo fa chiamare con un nome, un altro commerciante se lo fa chiamare con un altro nome, intendo la marca, no? Eccetera eccetera. E infatti ce ne sono di tante marche, però sono tutti uguali praticamente. La CRT ne ha fatto un sacco, lo stesso l'Intec, ce ne sono anche marcati Kenwood, figurati. Sì, sta arrivando la preparazione, che è anche molto forte. Stavo dicendo, io poc'anzi avevo il caricabatterie attaccato e probabilmente sentivi un po' di alternata. Adesso ti lascio per un istante la portante per 10 secondi e tu mi dici se c'è alternata. Non ce ne dovrebbe essere, silenziosissimo all'infuori della propagazione, considera quello anche, no? Vai. No, non ce n'è, dai, alternata non ne sento. Nemmeno tu, è perfetto, non c'è che dire, è perfetto. Ti credo, questo è veramente bello, io ce l'avevo già questo, solo che l'avevo venduto a una persona e questa persona l'ha venduto a un altro, l'avranno tutto toccato e là me la sono comprato nuovo io. Poi per i soldi che l'ho pagato è meglio nuovo. Sì, beh, certo che sì, ma è così infatti. Praticamente ti è arrivato oggi, sempre intorno ai 200 quello, No, l'ho pagato 163 questo. L'ho pagato, costa 163 nuovo. Con le spese e tutto mi è costato 172. 171 e 99, da 172. Sì, va benissimo, appunto, anche io l'ho pagato tondo con le spese e tutto, cioè portato a casa 170, io l'avevo ordinato da Amazon, però l'avevo ordinato, ma è già passato un anno, anche qualche mese, per cui 170 tondi, Natale. E infatti, a prenderlo a terza mano lo volevano 150 euro, io ho aggiunto pochi spiccioli e me lo sono preso nuovo e almeno so che non è toccato da nessuno. Ha capito? Hai fatto bene, per 20 euro è chiaro che ti conveniva nuovo, certo che sì, glielo grido, almeno non è toccato da nessuno, sai che ce l'hai avuto tu e basta, no, poi vanno bene, dai, sono radioline da niente, però vanno bene, altro che vanno bene, per quello che serve a noi, così scambiarci due chiacchiere fra amici, è più che ultimo, guarda, veramente. E infatti. e con questo disturbo pure di meno, perché scende di più di watt, invece quell'altro è fisso e mi dà 4 watt e questo me ne dà 2, e quindi lo tengo sempre così al minimo e va benissimo. Certo, non hai visto quanto aumenta, se aumento aumenta molto il segnale pure. Lo so, beh certo, quando tu incominci dalla potenza così, poi quando lo aumenti si quintiploca, diventa 5 volte più forte, anzi 6 volte addirittura, 6 volte, 2 per 6, 12, perché quello ti dovrebbe dare 12, ti dovrebbe dare al massimo, per cui al minimo te ne dà 2, mentre invece al massimo te ne dovrebbe dare 12. Lo so, lo so. Va benissimo, va, e a voglia. Appunto, per cui va bene, poi tante soluzioni, il bip, il ecco, aspetta, aspetta che no, non ci so, ecco. Opa, aspetta un attimino, Natali. Aspetta un attimino che accendo la luce che non vedo qua. Eia, avanti, e beh. Eia, ho messo il fornetto, guarda, ho messo anch'io al minimo, dopo chiedo a Giulio se ha cambiato. Questo praticamente da 8 watt o poco più, ma non fai 8 watt. Mettendolo al minimo potrebbero essere 2, dopo glielo chiediamo se ha cambiato il segnale. 2x4, 8, sì, potrei essere sceso di un Santiago. A me mi arrivi con lo scala, va, quindi non c'è un banuda. Per poterlo vedere devo accendere l'altro, il Superstar, che bello secco quello. Eia. Fondo scala mi arrivi, dimmi tu. Dovrebbe essere 9,5, dovrebbe essere una cosa del genere. Adesso io ho inserito un attimino, un pochino di eco. Ditemi se c'è. C'è. Giulio, ho messo 2 watt più o meno. Dimmi se ha cambiato, dovrei essere sceso un po'. No, appunto, te lo sto dicendo, arriva a 9 è avanzato come segnale qua su questo LED, potrebbe essere 9,5 in analogico più o meno, dai, suppongo che sia così, comunque tra 9 e 9,5 è senz'altro. Eia, sì, e io lo lascio sempre a 8, poco più da 8 e spiccioli, ma si può anche abbassare in città, portanti permettendo, E infatti, guarda, ti piace questo bip giù? Sì, è unico, fa così, aspetta, te metto anche il mio, un attimo, te lo faccio sentire, ecco, guarda, Vabbè, ma quello è più lungo del mio, il mio è corto come quello Colt. Sì, è perché posso anche allungarlo, abbassarlo, contarlo, eccetera, eccetera. Vediamo un po' così, cos'è questo, non lo so. No, quello è l'eco forse, K. Sono contento, dai Natalia, almeno adesso arriva la propagazione, ti sbizzarrisci. Guarda che sta già arrivando, è arrivato un colpo di propagazione poco fa, per poco mi copre a Giulio. Già lo credo, stavo dicendo, poc'anzi la propagazione, quanto adesso sta arrivando la propagazione, dico, si stava coprendo, per cui, vabbè, no, con 2 watt cosa vuoi pretendere? No, non c'è problema Natalia, comunque adesso ho tolto il bip, non mi piace. E anche io non lo uso mai, adesso lo tolgo. Appunto, però diciamo che una puntina di eco, così mi hanno detto, così vi sto riferendo, mi hanno detto che va molto bene così, poi non lo so, che poi anch'io non è che sono molto favorevole all'eco, però mi hanno confermato che messo a questa posizione va benissimo, che è perfetto e non dà nessun fastidio, vero? Sì, ce n'è appena una punta, ce n'è giù, ce l'ho anch'io, ma non ne metto, no, non mi piace. Infatti una punta, mi potrei anche aumentarlo, vedi, così ad esempio potrei aumentarlo, ma non è il caso, mi hanno detto di lasciarlo così come lo metto adesso in questo momento, perlomeno questo è quello che mi ha detto Luca Flipper, è che va benissimo così. E a voglia, va benissimo, sì. Appunto, e dunque, che poi non è che sono molto favorevole, ecco, però diciamo che una puntina non guasta, dai, non guasta, assolutamente. Ok, vabbè dai, io vi lascio signori che me ne passo in quel RT che devo fare cosa. al limite se coincide ci sentiamo stasera, tanto Marco deve anche pranzare. Dimmi tu a che ore sono? No, già, no, le 4 sono, cavolo. Sì, sono le 6:05, cioè le 4:05. Adesso stavo leggendo 6:06, stavo leggendo a Robici, sono le 4:05 esatte, per cui va bene così, va bene, dai, allora mi lascio anch'io, tu hai da fare, Marco deve pranzare, per cui avremo modo di sentirci magari stasera più tardi, o penso io, forse domani, no?